abbiamo con noi Lucia Calamaro per il suo ritratto d'artista al Teatro India dal 3 al 21 di questo mese, quindi da domani al Teatro India con tre dei suoi lavori. Lucia, intanto ben ritrovata su queste frequenze. Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno. Tutto bene? Siamo alla vigilia. Sì, sì, sì, stiamo montando, siamo pronti, siamo pronti. Siamo pronti per la città. Allora, La vita ferma, L'origine del mondo e Tumore. Sì. Intanto raccontiamo un po' come arriva questo ritratto d'artista, Lucia. Beh, sai, arriva dopo un po' di tempo che uno lavora, penso, diciamo, per avere un ritratto ci vuole un po' di materiale accumulato, quindi sì. Sono tre spettacoli degli ultimi 10 anni, un paio di spettacoli sono rimasti fuori da questo ritratto, da questa personale, ma insomma questo, diciamo, è il mio riassunto migliore, probabilmente i momenti più efficaci di un percorso artistico, ecco. Senti, hanno un loro ordine conseguenziale, sono allora, tappe di un percorso? Dentro il percorso? Ma no, sai, insomma, su 10 anni poi le cose succedono, ecco, sì, sì. Se calcoliamo che Tumore, sì, è del 2007, quindi 10 anni fa, e poi sono venuti gli altri, ma non c'è una logica uno dietro l'altro, a parte un certo rapporto con l'aldilà e con i mondi interiori, che comunque è un po', ognuno ha le sue piccole ossessioni, questa è sicuramente la mia. Sì. Senti, rispetto proprio a questi tre lavori scelti per questa personale, trovi un percorso personale che si riflette anche in questi? Ma sai, non li ho ancora visti tutti insieme, questa è la prima volta che anch'io me li guardo tutti, okay. Nell'arco di 2 settimane, quindi magari ti saprò dire alla fine, adesso non saprei dirti. Senti, i temi comunque portanti di ognuno di questi? Allora, l'ultimo, cioè il nuovo spettacolo La vita ferma, che poi è il primo che presentiamo, che debutta, sì, domani, è sicuramente sul ricordo come temone generale, e più specificamente sul ricordo delle persone care e morte. Ecco, su come questo ricordo poi piano piano evapori, svanisca o si trasformi, come alla fine il ricordo dell'altro diventi una reinvenzione dell'altro. Ecco, questo era quello che mi preoccupa e mi interessa rispetto a questo tema. E l'origine del mondo è più, se vuoi, un ritrattone di una crisi esistenziale, quella bella, tonda, bella nutrita, una vera crisi, e Tumore, uno spettacolo desolato, è l'omaggio che ho fatto a una mia amica, la mia migliore amica, che morì nel 2007 di tumore, e siccome uno poi col dolore non sa che farci, con la perdita, allora ci ho fatto uno spettacolo, mm-hmm, in modo che tutto non resti vano, che rimanga almeno qualcosa. Ecco, come, sì, vedi, un po' gli stati d'animo non sono allegrissimi dentro questi spettacoli. C'è poi da dire che la controspinta vitale è comunque forte, e che senza umore non si può vivere, quindi sono spettacoli anche molto buffi alla fine. Beh sì, la nota ironica è quella che ho sempre notato in tutti i lavori che ho, sì, visto. Sì, se no come si fa? Sta al mondo senza, cioè, ironia? Ti, cioè, prendi tutto in faccia, ti fai malissima, qualcosa va schivato. Ecco, sì, no? Sì. Quindi, cioè. Senti, Lucia, per chi non conoscesse il tuo lavoro, per i giovanissimi, raccontiamo un po' qual è stato, come è cominciato tutto. Tutto cosa? il tuo lavoro? Il mondo? No, il mio lavoro? Sì. Il Big Bang? No, teatralmente parlando, insomma, Lucia Calamaro, ecco. Lucia Calamaro, come tutti, o come tante, voleva fare con la ballerina, o la scrittrice, o l'attrice, insomma, cioè a quelle vocazioni, sì, riviste. Sì. Che non era ingegnere di suo, insomma, e quindi poi ho fatto i miei studi ovviamente a Parigi, perché dov'è che vuoi andare a studiare, certo, teatro, certo. Si va a Parigi, e poi quando sono ritornato su Roma ho avuto, diciamo, degli incontri veramente scioccanti, dopo anni di studi sole e sedia, in cui ti chiedevano magari tecnicamente di sculettare come interpretazione profonda di un personaggio. Sì. E quindi velocemente ho capito che non era il mio fare l'attrice in Italia, uh-huh. E quindi mi sono detto vabbè, qua l'unico modo per continuare a far teatro è montarmi una mia compagnia, quindi mi sono autonominata regista e ho creato una piccola compagnia, abbiamo fatto qualche testo classico, dopodiché mi sono un po' annoiata di fare la regista e mi sono messa a scrivere le cose mie e lì non mi annoio più, perché la scrittura mi sembra comunque un luogo di indagine infinito. Sì, sì. Ecco, anche dentro, non solo dentro la dimensione teatrale in generale, cioè la scrittura non ha fine e quindi i mondi che vengono fuori lì continuano a essere sempre molto molto interessanti. Il problema in generale è sempre stato ed è tuttora fuggire dalla noia, mm-hmm. cosa che non succede abbastanza, ecco. Mm-hmm. Senti Lucia, in qualità di autrice com'è il tuo rapporto anche con il lavoro attoriale e registico? Ah, è bello, perché è tutto. Allora, diciamo che secondo me bisognerebbe saper fare un po' tutto, cioè sì, la gente che fa teatro non può saper fare una sola cosa, no? Per dirigere un attore devi essere anche attore, io parto da questo principio, perché l'attore ti potrebbe sempre chiedere ma fammelo un po' vedere tu come lo faresti e se tu non lo sai fare ci fai una figura veramente barbina. Quindi diciamo il mio rapporto secondo me è abbastanza fluido, è bello, perché bene o male me la cavicchio mm-hmm. in quasi tutti gli ambiti, okay. Quindi so indicare come fare, non è che li lascio da soli, fallo un po' te, risolvimela, risolviamo insieme sì, i problemi anche sì. dello stare in scena con questa parola che è una parola che ha un suo peso specifico, una sua potenza evocativa, che vuole essere una parola con una certa densità, quindi non è semplicissimo, però il rapporto secondo me alla fine negli anni, quei pochi attori che amo, li amo, ecco, quindi non sono tantissimi ma ci sono, okay. E viceversa. Ok, e sempre in qualità di autrice nel lavoro di gruppo ti ci ritrovi? Il lavoro di gruppo? Ma sai, alla fine scrivo io, cioè alla fine sono finta democratica, quindi è un finto lavoro di gruppo, perché alla fine le decisioni le prendo certo, io certo. E quindi e riesco a convincere gli altri, non è che è quello il difficile, certo. Quindi sì, è meglio comunque che soli sempre a casa a scrivere. È bello il teatro anche per quello, no? Sì, per quella dimensione di scambio. Ti rendi subito conto quando non funziona, per esempio, un testo, perché l'attore lo dice e tu dici cos'è sta schifezza, ti butti e ricominci. Mm-hmm. E quindi è ottimo. È ottimo. Senti, rispetto anche alla, visto che insomma siamo in una dimensione cittadina romana, quello che sta succedendo a Roma rispetto al teatro e a tutti i sommovimenti e anche i momenti di incontro. Una tragedia, vuoi dire? il soccombere continuativo. Sono tanto triste di questa cosa, però allo stesso tempo non bisogna mollare. Tanto l'unica cosa che vale è resistere e fare. Il fare ti salva, quindi al di là che caschino i teatri, che chiudano i centri, che non si possa fare, bisogna fare, bisogna trovare una cantina, un salotto di un amico, due amici e comunque fare e produrre. L'unico modo per far vedere che non ce la faranno, non so chi è questa entità, diciamo, multiple che cerca di uccidere qualsiasi spiraglio di vitalità culturale, non ce la faranno. Chiuditi dentro casa, inventati qualcosa e loro non ce la faranno, ecco, questo posso dire. Ok. Senti, e per chi volesse saperne di più sul tuo lavoro, ci dai dei riferimenti web? C'è un sito, pagina Facebook? Sì, no, basta che c'è un libro, esiste un libro di editoria e spettacolo, esiste, del 2012, ma sempre valido, che si può o comprare a India adesso, perché ce li ho con gli spettacoli, o se no su internet, che si chiama Il ritorno della madre, il teatro di Lucia Calamaro. Perfetto. E si può comprare su internet per avere un accesso ai testi, alle critiche, ai pensieri, così. E se no effettivamente basta cliccare il mio nome con lo spettacolo al lato e escono tutta un'infinità di materiali, quindi bene, non è difficile. Bene, allora Lucia, tra l'altro il nostro rapporto al radioteatro risale a diverso tempo fa, magari riusciremmo a riproporre qualcosa e prossimamente, si spera. Dai, mi farebbe piacere, un abbraccione allora a tutti e a tutti gli ascoltatori. Allora ricordiamo l'appuntamento per il ritratto d'artista Lucia Calamaro, La vita ferma, l'origine del mondo e tumore, a partire dal 3, da domani 3 maggio fino al 21 al Teatro India qui a Roma. I riferimenti li abbiamo dati, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci si vede a teatro. Crepi, ciao ciao ciao. Ciao Lucia, ciao. Ciao ciao.